La storia e la memoria di Dino Pesole. Una mostra di materiali originali dell'epoca, la pubblicazione di due libri, la proiezione di audiovisivi e una tavola rotonda. Sono le iniziative che la Fondazione Anna Kuliscioff ha organizzato a partire dal 5 giugno fino al 28 giugno alla Biblioteca Sormani di Milano per rievocare la figura di Giacomo Matteotti in occasione del 90° anniversario del sequestro e della sua uccisione da parte del regime fascista. Matteotti, non solo esponente politico di primo piano nella lotta antifascista, parlamentare socialista, ma anche protagonista delle battaglie sociali e della formazione culturale e professionale di un nuovo gruppo dirigente che guidava alla progressiva emancipazione del mondo del lavoro. Giacomo Matteotti, si legge nelle motivazioni dell'iniziativa, va ricordato per la straordinaria mole di lavoro che ha svolto per diffondere le esperienze cooperative, la formazione degli amministratori comunali e dei dirigenti sindacali delle leghe contadine. Né si può dimenticare la sua statura di giurista su alcune materie, come la criminologia, i sistemi penitenziari e il diritto penale. È il 10 giugno del 1924. Sono da poco trascorse le 4 del pomeriggio. Giacomo Matteotti si sta recando a Montecitorio, passando dal Lungotevere romano. Una macchina con a bordo Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo, tutti membri della polizia politica fascista, si avvicina al deputato socialista. I 5 fascisti aggrediscono Matteotti e dopo una lunga colluttazione lo caricano in macchina. Dopo essere stato pestato a sangue, Matteotti viene accoltellato sotto l'ascella e al torace da Giuseppe Viola. Il corpo viene portato sulla via Flaminia e seppellito lontano dal centro della capitale. Verrà ritrovato solo il 16 agosto. È la risposta del regime fascista al celebre discorso alla Camera, nel corso del quale Matteotti aveva denunciato senza mezzi termini i brogli e le violenze delle elezioni del 6 aprile. Il listone fascista ha ottenuto, in occasione delle elezioni, i 2/3 dei seggi in applicazione della legge Acerbo. Il 30 maggio Matteotti denuncia a più riprese dai banchi della Camera i brogli elettorali e la conseguente illegittimità della maggioranza fascista. Contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni della maggioranza. L'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. Per vostra stessa conferma, dunque, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà. Vi è una milizia armata, composta di cittadini di un solo partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza, anche se adesso il consenso mancasse. In aggiunta, in particolare, mentre per la legge elettorale la milizia avrebbe dovuto astenersi e mentre di fatto in tutta l'Italia, specialmente rurale, abbiamo constatato in quei giorni la presenza di militi nazionali in gran numero, gli elenchi degli obblighi alla estensione, depositati presso i comuni, erano ridicolmente ridotti a 3 o 4 persone per ogni città, per dare l'illusione dell'osservanza di una legge apertamente violata, conforme lo stesso pensiero espresso dal Presidente del Consiglio, che affidava ai militi fascisti la custodia delle cabine. Abbiamo in linea il professor Mauro Canali, che è docente di storia contemporanea all'Università di Camerino. Buonasera, professore. Buonasera. Grazie allora per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Allora, rievochiamo la figura di Matteotti. Abbiamo ripercorso molto brevemente per i nostri ascoltatori le vicende che portarono al suo rapimento e alla sua uccisione. Ora, a distanza di 90 anni, lei che si è occupato a più riprese in diversi libri della figura del parlamentare socialista, cosa resta, come dire, dell'insegnamento politico di Giacomo Matteotti? Ma resta moltissimo. Non a caso, caduto il fascismo, le forze politiche che danno vita poi alla democrazia, alla vita democratica, riconoscono immediatamente in Matteotti uno dei padri della democrazia italiana. Non a caso, la prima esigenza che si pongono queste forze politiche è quella di celebrare un nuovo processo, un processo diverso da quello farsa di Chiedi del 26. Si può dire che la Repubblica Italiana nasca fondandosi su questa esigenza di dare una degna sepoltura, una degna celebrazione a un grande martire della democrazia. È l'insegnamento, l'amore per la libertà che ci porta direttamente a Matteotti, facendoci scavalcare i 20 anni del regime fascista. Ecco, ma dal punto di vista della vicenda che poi portò al suo rapimento e all'uccisione, anche alla luce di quel che avvenne poi, anche di quella specie di indagine farsa che il regime decise di attivare, è tutto chiaro di quel che avvenne in quei giorni o ci sono ancora dei lati oscuri del rapimento e dell'uccisione di Matteotti? Guardi, l'istruttoria si può dividere in due parti. C'è stata una prima fase che fu un'istruttoria seria. Venne affidata a due magistrati seri, Mauro Del Giudice e Umberto Tancredi, e questi giudici, questi inquirenti arrivarono rapidamente alle responsabilità. Intanto allusero immediatamente al delitto volontario. Quindi non fecero, non ebbero tentennamenti da questo punto di vista. Arrivarono all'arresto non solo degli esecutori, ma arrivarono all'arresto dei secondi mandanti, uomini vicini a Mussolini, anzi i suoi più diretti collaboratori, Cesare Rossi e Marinelli. Ricordo uno segretario del PNF, segretario amministrativo del PNF, e l'altro addirittura il braccio destro di Mussolini. Quindi questa istruttoria puntò direttamente a Mussolini, alle responsabilità di Mussolini. È la seconda fase dell'istruttoria che fu una farsa e che fu condizionata dalla svolta del 3 gennaio del 25, dalla svolta autoritaria del regime. Si può dire che il delitto Matteotti costrinse il fascismo a gettare la maschera, a rivelarsi per quello che era, un movimento totalitario che ambiva a regime a partito unico. Quindi nel momento stesso che le indagini si avvicinarono, alla stanza dei Bottoni, alla stanza di Mussolini, la svolta del 3 gennaio impedì che si arrivasse a compimento di questa fase e si avviò la seconda fase, quella farsa, la farsa istruttoria, che portò poi al processo di Chieti, dove si parlò di delitto involontario, insomma, dove si alla fine, in qualche modo tutti, anche gli stessi esecutori, pagarono una pena irrisoria per quell'atroce delitto. È molto interessante questo aspetto che lei sottolinea, professore, perché in qualche modo l'omicidio di Matteotti fa da detonatore, se vogliamo, involontario all'accelerazione della crisi del regime liberale. Questo poi in sostanza. Ma sì, infatti fu chiamato, da qualcuno è stato chiamato un delitto totalitario, sì. Nel senso che quei 2 anni successivi alla marcia su Roma, che in qualche modo il regime, nei quali il regime si presentava con una specie di maschera, legalistica, dove bene o male c'era un Parlamento, anche se poi condizionato dalla legge Acerbo, quindi la legge maggioritaria, e insomma anche profondamente contaminato dalle violenze fasciste comunque, perché bisogna ricordare che il delitto Matteotti è l'ultimo dei crimini della cieca fascista, di questa polizia segreta di Mussolini. Ricordo che prima del delitto Matteotti ci fu l'aggressione a Giovanni Amendola, un'aggressione gravissima che è precedente a quella poi fatale del 25. Ci fu l'aggressione a 2 dissidenti fascisti, Misuri e Cesare Forni, cioè la cieca fascista in quei 2 anni operò, ma il delitto Matteotti rappresentò la cartina di tornasole della vocazione autoritaria e totalitaria del regime fascista. Ecco, se ci soffermiamo brevemente sulla figura di Matteotti, antecedente il suo rapimento e la sua uccisione, come potremmo sintetizzare la sua attività politica, poi non solo politica, perché lui fu un dirigente, un parlamentare socialista, ma anche un grande protagonista delle battaglie sociali di allora? Certo, certamente. Matteotti è stato un grande italiano, sì. È stato un grande politico ed è stato un democratico. Lui era un deciso antifascista, naturalmente. Ora, Matteotti ingaggiò una battaglia fortissima su 2 fronti, uno esterno, contro il fascismo, ma l'altro interno, perché c'erano all'interno del Partito Socialista alcune tendenze, diciamo, di tipo collaborazionista verso il regime fascista. Ci stavano alcuni dei deputati, alcuni degli uomini politici del PSU che in qualche modo guardavano con attenzione a un'eventuale, in prospettiva naturalmente, a un'eventuale collaborazione col governo Mussolini. Ecco, Matteotti fu rigorosissimo e antagonista del regime e si batté fortissimo contro appunto queste tendenze alla collaborazione, per prima cosa. La seconda, Matteotti crebbe politicamente, ma anche dal punto di vista dell'impegno sociale, nella sua terra. Lui fu quello che, come dire, capeggiò, diresse con intelligenza le lotte dei contadini della sua zona, ad esempio per il rinnovo dei patti colonici. Lui era amato dalle plebi della sua zona. Il funerale di Matteotti, quando Matteotti arrivò in quella specie di funerale fatto quasi clandestinamente, perché poi il regime temeva appunto manifestazioni in coincidenza col funerale, quando lui arrivò, la salma di Matteotti arrivò a Frattapolesine, ma già durante il percorso del treno ci fu un tributo di popolo enorme. Bene, grazie, molte grazie. Prego. Professor Canali, per questi suoi chiarimenti e buona serata. Grazie a voi.